Ho anche detto questo, che via l'aneddoto, no? Via l'aneddoto, perché l'aneddoto, cioè la storia, una storia emotiva, appassionata, una donna che piange, un bambino abbandonato, eccetera, tutto questo deforma in realtà, scusate il gioco di parole, il bisticcio, la realtà. Quindi bisogna usare delle attrazioni, queste attrazioni sono due, di due tipi. Primo, si prende l'oggetto, lo si taglia a pezzi, come dicevo, secondo i piani, eccetera, eccetera. Seconda soluzione, successiva nel tempo, usiamo soltanto dei dettagli per rappresentare l'intero. Tutto questo è d'altra parte molto astuto, ci pensate, no? Perché quando noi pensiamo a una persona, no? Se io penso, ci sono vari Emanuele, naturalmente, prendete Emanuela, no? Se io penso a Emanuela, per esempio, io conosco bene Emanuela, poniamo, e penso a Emanuela. Io non penso a Emanuela in una sua interezza, per esempio. A meno che Emanuela non abbia, che è evidentemente il caso, dei piedi giganteschi, io non penso ai piedi giganteschi, io penso però a dei dettagli magari che ho assorbito solo io, questo è il punto, dettagli che ho assorbito solo io, ma per me una persona, un paesaggio, una cosa, è nei dettagli. Questo è il quadro di fronte a cui sono, quadro che viene però contestato da tre leggi. Su quali basi viene contestato? Reverdil ci dice che, scusate se riesco a spostare un po' lontano questi ragazzi, ammesso che sia possibile. Sentite, scusate, si fa lezione. Incredibile la docilità che non riesce a incontrare. Reverdy dice, ma le cose, le persone, i fenomeni, fenomeno è una parola greca, come voi sapete, phainomenos, che vuol dire ciò che appare, non è fuori dal mondo della vita. Il mondo della vita non è un'espressione di Reverdy, è una grande, mirabile espressione di Husserl, no? La legge non è fuori dal mondo della vita, nel senso che si trovano nella vita. È bella questa idea, eh? Per esempio, ascoltatemi bene, questo tavolo, voi dite un tavolo, dica un po', è un tavolo. E invece no, perché questo tavolo si trova qui, si trova in quest'aula, capite? E quest'aula si trova nell'università. Ed è legato, questo tavolo rotondo, è legato a dei ricordi ormai nel corso del tempo. È legato, che so, a dei litigi che sono avvenuti, io tra l'altro ne ricordo uno qui, non con gli studenti, ma con i colleghi, capisci? Quindi le cose tendenzialmente, a non dire le persone naturalmente, sono travolte dal flusso della vita. Questa è la contestazione che fa Reverdy. Quindi quando Reverdy rappresenta un oggetto, vuole rappresentarlo travolto dal flusso della vita. Ecco perché lui non descrive i fenomeni in sé, ma descrive i fenomeni travolti dal flusso della vita, e in altri termini, come fa a descriverli in questo modo? Li colpisce come se gli sparasse sopra, li colpisce con quella che io chiamo attenzione affettiva. Attenzione è benissimo, questo termine non è già usato, ma è un'attenzione emotiva, un'attenzione affettiva, non è l'attenzione dell'entomologo, no? Del biologo. Il biologo non ha un'attenzione affettiva, a meno che non stia facendo una scoperta, ma neanche in quel caso, nei confronti del bacillo che ha sotto il microscopio. Ma attenzione affettiva vuol dire che io attenzione, parola molto, molto affascinante, attendere. È una piccola considerazione etimologica. Attendere, mentre intendere è un'altra cosa. Io intendo un certo discorso, vuol dire sono dentro, tendo dentro il discorso, va bene? Attendere, fare attenzione, vuol dire, come dire, andare verso quella certa cosa. Sono piccole finestre che magari, essendo voi grandi, bravi e maturi, non avete sotto. Io avete tutti un po' di letteratura francese, quello che avete eliminato, mi viene una specie di dubbio al dottore. Hai capito qual è il punto? No? Naturalmente, se tu facciamo questo piccolo, questa piccola variazio, quando tu parli con una persona, gli dici mi intendi, e questo quando noi vogliamo che la persona entri in noi nel nostro discorso, ma in una fase, per così dire, preliminare, noi gli chiediamo di fare attenzione, di andare verso di noi, cioè l'intenzione, come dire, è la fase successiva. L'attenzione è quella che richiede il professore, quella che richiede, no? Ecco, questo è il punto. Aggiungiamo, chiudo il divertente inciso, che io posso fare attenzione a una persona, va bene? Ma non intenderla. È chiaro il punto? Bene. Ora, qui quello che si propone, al di là di queste considerazioni abbastanza divertenti, interessanti, quello che si propone è quello di andare verso le cose con attenzione affettiva. Questo chi è che deve fare? Lo deve fare l'autore, il poeta, cioè deve investire di attenzione affettiva l'oggetto che vuole descrivere, e a sua volta deve farlo il lettore. Facciamo un esempio per intenderci. Abbiamo citato in una poesia precedente, adesso naturalmente andremo con un passo più lesto, la campana senza battacchio o battaglio. Ma voi sentite che non si tratta, se guardate la poesia, di una semplice presa d'atto da parte dell'autore, né principalmente da parte del lettore, del fatto che c'è una campana che è senza battaglia, no? Come io prendo atto del fatto che il semaforo è rosso. Ecco, sentite la differenza. Io prendo atto del fatto che il semaforo è rosso e sarei pazzo se avessi un'attenzione affettiva nei confronti del rosso del semaforo. Usate la mente, bisogna essere agili, capite? Quando è che potrei avere un'attenzione affettiva nei confronti del rosso del semaforo? Solo se spero che sia verde, ma in questo caso io mi rivolgo, come dire, non al rosso del semaforo, ma a una situazione generale del traffico, sostanzialmente, no? Ecco. Ma l'attenzione affettiva qui invece colpisce, investe la campana. Quella campana, noi avvertiamo che non è un oggetto morto, ma questa campana senza battacchio, è un oggetto investito dall'attenzione affettiva dell'autore, e l'autore chiede che il lettore lo investa. Bene. Terzo punto, investito di attenzione affettiva, l'oggetto quindi, persona o cosa che sia, è come travolto dal movimento, è nel movimento, preciso, quale movimento? Il movimento che lo riconosce all'interno della vita, il movimento che gli dà vita, ma certamente dopo l'attenzione affettiva l'oggetto non è più lo stesso. Capite la differenza? Questo tavolo è qui. Se io non conosco questo tavolo, non ci sono mai stato, il tavolo è un tavolo ed è abbastanza difficile che io abbia un'attenzione affettiva per il tavolo. Ma se questo tavolo è quello a cui io ho fatto lezione per molto tempo, intorno a questo tavolo c'erano una volta dei consigli di presidenza, quindi appunto lì ricordo i viti che c'erano, eccetera, eccetera. Allora il tavolo diventa vivo, è l'idea che i fenomeni non siano in un mondo morto, ma in un mondo vivo. Quindi con l'attenzione affettiva io restituisco verità ai fenomeni. Ecco il punto. Laddove tutto volevano fare i cubisti, Braque, in testa, ma poi anche gli altri, Degeto, fuorché dare vita agli oggetti, anzi volevano rappresentare gli oggetti in modo scientifico, altro che dare vita. Ecco perché quando De Verdi dice, sono stato chiaro di loro, quando De Verdi dice io non sono cubista, non voglio essere chiamato cubista, perché il cubismo non mi appartiene, il cubismo, ma dice proprio, è sostanzialmente vero, anche se è chiaramente tutta la sua poetica, poetica sì, certamente, è coinvolta nel cubismo. È chiaro tutto questo. Le tappe sono quindi queste: prendere in considerazione del fenomeno, ma da quel momento in poi, come i cubisti, ma da quel momento in poi la strada diverge, perché io ho un'attenzione affettiva nei confronti dei fenomeni. Il fenomeno viene, come dire, travolto dal movimento della vita a seguito della mia attenzione affettiva. Ultima tappa. Che cosa succede a questo punto del fenomeno? Il fenomeno è possibile inserirlo, si inserisce, in una storia. Quale storia? È molto semplice. Nel caso della campana senza battaglio, è la storia che è raccontata in quella poesia. Nel caso del tavolo che ho qui davanti, è il tavolo a cui ho fatto lezioni, eccetera, eccetera. Ultimo passo, fate ancora uno sforzo per essere repubblicano, diceva Kant, fate ancora un piccolo sforzo. Ultimo passo. Se è inseribile ed è inserito in una storia, possiamo dire tout court che il fenomeno è inserito nella essere una storia, perché la storia è fatta di infinite piccole storie. Quindi voi capite che questo passaggio, questa poetica di Verdi diventa estremamente interessante per rivalutare la natura viva del mondo e il suo contatto con le storie e la storia quindi. Avete dei dubbi su questo? Che è un punto capitale, che viene vicino, punto capitale, che il professor Guaraldi chiederà infallantemente agli esami. Lo chiederà in modo di volta in volta variato, per cercare di indurvi in errore. Quindi dovete saperlo molto bene. Se voi sapete bene che 2 per 2 fa 4, io posso chiederlo in tutti i modi più strani, ma 2 per 2 sarà sempre 4. Questo è il punto capitale. Avete scritto punto capitale? Capitale. Ed è un K. Vabbè. Adesso vediamo. Sempre più difficile. Vediamo cosa succede quando si fa quello che ha fatto quando si localizza un oggetto, si localizza un fenomeno con quale era difficile, ma questo è più difficile. Se io localizzo un fenomeno attraverso attenzione affettiva, inserendolo in una storia e quindi inserendolo nella storia, certamente gli do una faccia al fenomeno, no? Gli do una faccia. Non solo gli do una faccia, una particolare faccia, ma gli do anche dei limiti. Quali sono questi limiti? Lo vedo subito. Questo tavolo ha investito di attenzione affettiva, per i motivi che abbiamo appena detto, ha però dei limiti, nel senso che questo tavolo non è questa strada, questo tavolo è qui, attenzione bene, è qui, e non può essere là. Certo, se lo porto là è là, ma in questo momento è qui. Adesso arriviamo a un discorso un po' più soave, parlando di una persona che amiamo, tutte esperienze che devono essere familiari alla vostra età, perché se non sono familiari alla vostra età, tanti saluti non saranno mai più familiari. ecco un uomo che io investo, mi fa un po' senso che un uomo che io investo in attenzione affettiva, facciamo un uomo, ecco un uomo che io investo di attenzione affettiva, questo uomo è un fenomeno, lo investo di attenzione affettiva, quest'uomo è quindi sentito immerso in una storia, quella con me, con altre persone, nella storia, quest'uomo non è più semplicemente un tubo con due gambe, due braccia, eccetera. Quest'uomo è vivo, in modo non dissimile dalla campana di Mandrake, senza quest'uomo ha dei limiti. Nel senso che io posso idealmente, con un dito, tracciare i confini di quest'uomo, non solo in senso fisico, ma anche in senso morale. Se per esempio quest'uomo ha una certa voce, no? A meno che non sia un indicatore, ma neanche in quel caso, avrà sempre quella voce. Aggiungerò una cosa, che la mia attenzione affettiva è particolarmente sollecitata, se così posso dire, se questi limiti sono precisi. Noi ci innamoriamo di qualcosa di preciso, di un paesaggio preciso, è vero? Non di un paesaggio dalle tinte, dai colori, dai contorni labili, no? No, non c'è alcun dubbio. Riflettete su questo punto interessante. Voi dite, ma ci sono dei paesaggi però in cui i contorni non sono definiti. E ci piacciono ugualmente. Eh sì, ma in realtà quello che ci piace è il non definito, ma questo non definito è in sé definito, capite? È l'autore che ha voluto. Se voi prendete una qualunque veduta, per intenderci, del guardi o del canaletto, no? Allora voi vedete che il mare, il cielo si confondono insieme agli edifici, eccetera. Però questa indefinitezza è definita, quindi è sempre il definito che fomenta l'attenzione affettiva, quindi è il tono della voce di un uomo, quell'uomo. Vediamo che Roberta ami, sempre perché non voglio dire partner in questi discorsi, ami un poeta, è un'ipotesi. Questo poeta avrà una certa voce, lei come rimarrebbe se alla telefonata successiva lui cambiasse? Male, ci rifletta, forse la prima volta che cosa è capitato, lui non dà una risposta convincente e si appresta a una terza telefonata in cui mostra un'altra voce e poi una quarta, una quinta. Ora ci sono degli imitatori straordinari che riescono a essere altri, uno dei nostri tempi, un giovanotto dei nostri tempi, molto bravo, che non lo voglio vedere, che è Corrado Guzzanti. Se qualcuno di voi l'ha presente, riesce a essere dei personaggi critici, diversi, eccetera. Sì, ma uno ha un rapporto con qualcuno che sia definito. Noi aneliamo alla definizione, solo per non perderci. Perché se io ho a che fare con un giocoliere, con una persona che non si sa chi è, non so chi amare, non so, non solo chi amare, non so a chi devo badare, no? Chi devo badare, quindi la definizione è molto importante. Ora però la definizione, oltre che essere molto importante per l'attenzione affettiva, ha una conseguenza su cui occorre meditare. Più io definisco l'oggetto della mia attenzione affettiva, più, come dire, rendo l'oggetto libero di cambiare posto, di uscire dai propri limiti. Più un oggetto è definito, più riesce a uscire dai propri limiti. E perché? Perché è diventato così importante per me che, uscendo dai propri limiti, non si perde. Attenzione bene, questo è un concetto difficilissimo. A me gli occhi, ragazzi. A me. Se io vedo una persona, amo, adesso una donna, concedetemi, amo una donna, vedete? Mettiti i suoi limiti, limiti della voce, eccetera, eccetera. Tutti questi infiniti limiti mi sono noti, al punto tale che possono anche sfumarsi. La donna resterà sempre quella. E nel corso del tempo noi ricordiamo lo sfumato, la fuoriuscita dal limite. Noi non ricordiamo più esattamente quella luce, ma lo sfumato, la fuoriuscita dal limite. E questa fuoriuscita dal limite è come un'allusione all'eternità, un'allusione a una possibilità di infinito. Capite? È quello che sottrae l'immagine che abbiamo fissato con l'attenzione affettiva, la sottrae alla sfuggenza. Non ho più bisogno di ricordarmi quegli occhi a menadito. Quegli occhi ricordati a menadito, fissati, localizzati, adesso possono uscire fuori dai propri contorni. Dirò di più. Una persona o un oggetto localizzata, il caso amoroso lo mostra molto bene, lo posso vedere dappertutto. Io l'ho conosciuto in un certo contesto, mettiamo qui all'università, ma io lo posso vedere in un viaggio fuori, per cui quelli che per fuggire delle pene amorose decidono di fare un viaggio a Londra, a Parigi, alle isole Malindi, eccetera. Quell'immagine ormai ce l'hanno dappertutto, cioè è stata così definita che non solo sfugge dai propri stessi limiti, caso A, ma lo possiamo portare da qualunque parte. C'è qualcosa di oscuro in questo, lo capite bene. Ha capito bene? Chi è che non ha capito bene questo concetto? Ma penso che l'abbiate capito tutti bene. D'altra parte, fate la prova. Costruite una relazione sentimentale. Fatevi abbandonare dall'altra. Potete anche usarlo per finire lei. Fatevi abbandonare dall'altra, quindi costruite la fretta. Andate a fare un viaggio a Kathmandu e vedete se l'immagine del partner rimane ancora in testa. Se è così, avrete provato la mia teoria sulla vita. Vuoi dire che il costo è alto? Ma per la scienza. Questo, però dovete fare così, seguire questa sequenza. Innamorarvi, attenzione affettiva, farvi lasciare, poi andate a Kathmandu e vedete se l'immagine rimane. Bene. Questo ci induce a spostare un attimo il discorso su una caratteristica del realismo che cercava di definire molto il quadro, no? Ricordate l'aneddoto vero, di Flaubert che Maupassant voleva imparare a scrivere, gli dice vai fuori e guarda quell'altro. Maupassant va, dice l'ho visto, dopo un quarto d'ora dice l'ho visto. Quanto l'hai visto? Un quarto d'ora. Vai! Pronto, non so se il concetto deve essere tutto. Ma passa, basta, un altro quarto d'ora, e mo? Quando sei stato? Mezz'ora. Torna a vedere l'albero. Ecco. Allora, mo passa lo stesso, forse perché l'insegnamento di Flaubert era stato realizzato, possiamo dire, giocosamente, mo passa lo stesso, a un certo momento, nella rappresentazione così accesa dei dettagli, le foglie dell'albero, eccetera, gli capita una cosa strana, che capita però a tutti noi, non solo. Vediamo che voi decidiate, escludendovi dal mondo esterno, di fissare un oggetto che avete sul tavolo. Per quanto tempo? Un'ora. Fissate solo quell'oggetto. Questo è provato, sentite. A un certo punto l'oggetto assume per voi un carattere duro, allucinatorio, assume un carattere, è come una sorta di visione, no? Molti carcerati, per esempio, che vedono sempre la stessa, che so, piastrella del muro nella stanza, hanno provato questa sensazione di allucinazione in modo tale piastrella. Anche qui si può fare la prova in questo modo: fate un reato, fate semplice in galera e vedete se la piastrella è guardata sempre, no? Tutte le persone sole convivono con queste allucinazioni per una vista che è troppo scarsa. Questo naturalmente non ce l'ha colui che può vedere e disvedere, ma colui che è costretto a vedere, a un certo momento i contorni sfumano. Il realismo di Maupassant, pensate, diventa, nell'ultima parte della sua produzione, diventa una sorta di realismo visionario. Lui racconta visioni. Ed è incredibile pensare che un naturalista così attento alla descrizione della realtà possa raccontare delle visioni. Eppure questo così visionario di Maupassant è stato ampiamente studiato, è stato anche oggetto di studi. E anche una tesi di laurea, no? Però una tesi di laurea, però la persona è un idiota e quindi non sa. Nel caso di Reverdy abbiamo una situazione onirica, delle situazioni oniriche. Ecco, ricordiamo queste poesie, l'ultima che avevamo veduto, qual era? Era Le Saint-Tropez, no? Ecco, Le Saint-Tropez, voi ricorderete, c'era un topos, dicevamo, del delirio, un topos del delirio, a cui seguiva un topos della paura. Ebbene, in nessuno dei due casi noi abbiamo stretto senso una situazione di sogno, piuttosto abbiamo un indizio qui per capire come qualificare questa situazione. Sono situazioni con un alto tasso di emotività, sia la prima, il delirio, sia ovviamente la seconda, la paura. Quindi non sono situazioni di sogno, e questo vale per questa poesia, ma vale direi per tutto, ma situazioni in cui l'emozione è molto forte. Sapete cosa viene in mente? Viene in mente questo, che noi siamo nei paraggi ormai dell'espressionismo. Nell'espressionismo non è certamente il zoo punk che è in mezzo, il quadro che conoscete tutti, il grillo che è in mezzo, no? L'urlo, quello che è stato capito, poi non so se l'hanno trovato o non l'hanno trovato. L'hanno trovato? E ve l'ho raccontato, che c'è un'amica di mia figlia che ha assistito al culto. Era lì, ve l'ho raccontato male questo. Era lì mentre è stato. Era un pomeriggio e sono arrivate tre persone che improvvisamente si sono messe il cappuccio sulla faccia e hanno cominciato a spaccare il quadro. Una aveva una pistola, tutto in silenzio assoluto. Lei cosa avrebbe fatto? Dovrebbe chiamare la polizia. Questo qui stava in silenzio, non dicendo niente, era un tre. E uno era in macchina di sotto. Hanno staccato il quadro dal muro, ma tra la gente, nel museo, hanno portato giù il quadro, questo qui stava sempre con la pistola. Nessuno ha detto una parola, hanno messo il quadro in macchina e si sono dati, in svedese, se sono dati, in svedese. Allora, c'è un qualcosa che ha a che fare con, come vedete, la cultura poi ha sempre dei cambi, in questa volontà di colorare affettivamente le situazioni, c'è un qualcosa che ha a che fare poi con quello che è l'espressione. Possiamo dire con certezza che siamo all'opposto dell'impressionismo. È importante avere queste collocazioni generali. All'opposto dell'impressionismo, nulla impressionistico in Reverdy, vicino al cubismo, ma con quelle differenze che abbiamo detto, e con dei prodromi, con delle contiguità in qualche misura con l'espressionismo, queste bocche aperte, queste facce, eccetera. Benissimo. Allora, vediamo un principio fondamentale per quello che vi ho detto. Naturalmente il principio capitale lui non lo esprime, sono io che lo elenco da tutta la storia. Questo invece è un tuo aforismo, un tuo principio politico che dobbiamo considerare, ma alla luce di quanto finora si è detto. Eccolo qua. Dicevo, non bisogna rappresentare, ma bisogna presentare. Ne pas représenter, mais présenter. Qual è la differenza? Se io rappresento, io blocco la cosa. La rappresentazione è come un inchiodare l'oggetto. Io davanti a me ho Francesca, vediamo che io posso un pezzo. Rappresentare Francesca è un qualcosa di molto preciso. Per molto tempo, adesso non è giusto, ma sempre belle signore si facevano fare il ritratto. Ma voi vedete che anche a Piazza Roma, insomma, ci sono i ritrattari, quelli che a pagamento ti fanno. Lei si è messa a fare. Chi è che ti ha fatto fare di voi un ritratto? Questa è la vergogna, devo dire le cose a Montmartre, mi ha detto signorina e le faccio un ritratto. Non è mai capitato? Io mia moglie l'avevo fatto fare a Montmartre, lui aveva provato anche a farlo da me, ma io mi ha rifiutato. Però insomma, e cosa faceva il ritrattaro? Se il ritrattaro per esempio, anziché rappresentare sempre la Manuela, Manuela è questa, poi c'è un'altra Manuela, no? Se non sbaglio, no, lei, eccola lì, ah, è lei là. Però toccherà lei, ma se mettiamo Manuela 1, la chiamiamo così per comodo, lei è Manuela 2. Il ritrattaro ritrae Manuela 1, ma anche Manuela 1 fa Manuela 2. Manuela 2 ricarica. Dice, ma io non ti parlo, perché tu non mi hai rappresentato. Rappresentare è qualcosa, darei per dire, che ha una sua carica etica, no? Nel senso che io devo stare legato alla realtà. È stato un grosso problema questo nella storia dell'arte, quando veniva rappresentato qualcosa che era diverso dal tuo modello. Infiniti committenti hanno rifiutato il quadro perché non era adeguato. Mi ricordo di questo momento la storia di Caravaggio che aveva fatto con la Madonna, che aveva fatto la puttana, e questa Madonna venne rifiutata, voi sapete, perché i mondi dicevano, ah, dobbiamo trovarci una. Se ricorda questa storia. La raffigurazione ha bisogno di rispettare. Perché Reventi rifiuta questa idea? Proprio perché le cose non sono quelle che sono se non immerse nel movimento della realtà. Quindi, per rappresentare una persona, noi dobbiamo immaginarla afferrata dall'attenzione affettiva. È geniale questa idea, perché effettivamente rappresenta, pensate il quadro più celebre, Mona Lisa non è così, questo lo capisce più, quello sguardo fa pensare che Mona Lisa sia travolta dalla vita, non esiste una persona che sia così. Tutte le grandi opere d'arte, d'altra parte, seguono questo criterio, no? Anzi, come fai a distinguere a volte, è un criterio tra i tanti, un'opera d'arte vera da un'opera d'arte fisica? È proprio questa, l'opera d'arte fisica, cioè l'opera che non è un'opera d'arte, è ingessata, è secca, non ha vita. Tutti i quadri orrendi che cercano di vendere nel centro di Roma ai turisti, com'è che si capisce che sono croste? Perché non solo lì non c'è neanche la minima cura tecnica del dettaglio, quindi direi crollano anche da questo punto di vista, ma soprattutto non c'è vita. Quindi questo principio, bisogna stare attenti alla rappresentazione, perché la parola rappresentazione non contiene il movimento della vita. E sai perché non lo contiene? Perché rappresentare vuol dire figé, fissare, ma l'oggetto nel movimento della vita si muove. La campana senza battaglio non è fissa lì per sempre, ma è all'interno di una storia, si sta muovendo. Bisogna invece, dice il nostro Pierre, bisogna presentare. E questo è abbastanza semplice. Cioè, bisogna offrire. Ecco, allora potremmo dire offrire al lettore? Sì e no. Cerchiamo di essere più sottili, insomma. Bisogna offrire alla vita dell'arte quello che naturalmente appartiene alla natura. Ripeto questo concetto. Bisogna offrire alla vita quello che naturalmente le appartiene. Se tu fai, ripeto questo concetto ancora una terza volta, se tu fai una donna, vuoi rappresentare una donna vera, devi offrirla alla vita perché la donna appartiene alla vita. Questa è la differenza fondamentale che lui stabilisce tra il principio realistico del rappresentare, che poi è quello della fotografia. Sarebbe interessante fare una piccola osservazione di chi di voi amasse la fotografia. C'è qualcuno che ama la fotografia di voi? Tutti siete fotografi, che dice? Nessuno di voi, siete delle pecore. Bello essere grandi, una volta io comprò uno, poi non lo so più, è una delle cose che mi ha colpito di più nella vita, insomma, come se uno avesse perso un braccio, quindi come mai? Perché non lo so, come uno sta sull'aereo prima cosa e poi da quel momento in poi, prima c'era una fotografia bellissima, l'hanno esposta in via Mondoni, e poi è successo che ho fatto fotografie solo e tre, così brutte che avevano perfino la loro artisticità, talmente non più in vita. Allora ho buttato via con angoscia, e poi ho comprato una macchina nuova, così eccetera, ma mi sono reso conto che faceva ciò. Allora non volevo affidare, come dire, la mia memoria a questo schizzo. È chiaro il discorso? Volevo essere eterno, così, ma non per la mia fotografia, anche perché sarei stato germogliato in una mediocrità metafisica. Cosa ancora non faceva? Cosa ho fatto le fotografie quest'estate in Russia? Orrendo. La cosa interessante è che avevo messo un grande sforzo. Sono state orrende. Poi qualche benevolo osservatore ha detto, no, orrendo. Le faccio le strade. Perché probabilmente non voglio, usando un po' questa metafora, non voglio presentare le cose. Me ne frego di presentare le cose. Forse questo. Ultimo concetto di questo. Poi dobbiamo vedere delle poesie bellissime. La prossima volta una è Départ, preparatevi, e l'altra, lo dico, è Mémoire. Ecco, perché eventualmente chi non ce l'ha che fare. Credo che siano sempre nella raccolta del tatuaggio di qua, ne avvegliano. Ma vediamo questi ultimi concetti. Quindi subito. C'è un uomo che è il padre, cioè, così. imbecille quanto vuoi fare. Dunque, l'arte non deve badare alle astrazioni cubiste. L'arte non deve, peraltro, badare nemmeno alle realtà, ma a tutto quello che abbiamo detto. Si parte dal fenomeno, attenzione a questina, eccetera, eccetera. L'arte, questa è l'altra frase famosissima di Alberti, non deve rappresentare la realtà perché l'arte deve portare lo spettatore altrove. E anche la frase questa, tra virgolette. L'arte, dice Alberti, è un forno per brûler le réel, è un forno per bruciare il reale. Quindi, le cose che sono passate nell'arte devono essere bruciate nel loro aspetto meramente fenomenico per essere rappresentate in questo fenomeno più movimento della vita di cui il fenomeno tra. Né attrazioni, né realtà, ma realtà fenomeni travolti dal movimento della vita. Bene, siamo giunti.